In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud. Data Center, Trust Services e tecnologie cloud enterprise. Le migliori soluzioni per realizzare grandi progetti. Aruba Enterprise, la certezza di una soluzione IT. Passioni, eroi, viaggi nell'anima, colpi d'ala, cadute e risalite, donne coraggiose, emozioni, superare i limiti, il falco e il gabbiano di Enrico Ruggeri. La forza dei potenti della storia, la storia con la S maiuscola, non si esaurisce con la morte di queste persone, anzi, la morte glorifica, amplifica la fama, permea tutto di leggenda, crea essa stessa il personaggio. Lo sappiamo già anche nelle nostre vite, insomma, le persone normali da morte sono più buone. Appena muore uno, era il più grande genio. Vedrete più tardi possibile quando succederà a me. Diventerò improvvisamente il più grande genio che la musica abbia partorito fino alla morte successiva. Beh, e gli egizi le sapevano bene queste cose, hanno costruito le tombe più famose al mondo per i loro re, le piramidi, anche nella nostra società, nel nostro mondo, insomma, le tombe, i sepolcri, come diceva Foscolo, sono lì per lasciare in peritura memoria il ricordo dei grandi. E il culto della morte, per esempio nell'antico Egizio, è tra i più famosi al mondo. Eppure gli egizi non sono stati gli unici che hanno costruito opere grandiose in onore della morte dei sovrani. Andiamo per esempio nel cuore di Roma, a pochi passi da Città del Vaticano, c'è una tomba monumentale, anche se in realtà è un castello sulle rive del Tevere, il mitico castello Sant'Angelo, la tomba dell'imperatore Adriano, protagonista della nostra puntata. Il sepolcro originale, fatto costruire da Adriano, dall'imperatore nell'antica Roma, è molto diverso da quello che vediamo oggi. Quello che vediamo oggi è il risultato di aggiunte di epoche diverse, però il vecchio mausoleo e il castello di oggi hanno una cosa comune: la maestosità. Il mausoleo progettato da Adriano, dall'imperatore romano, ha una base quadrata sulla quale poggiano due cilindri sovrapposti e in cima la statua di una quadriga. Beh, di questa struttura oggi rimane la sala funeraria, la cosiddetta sala delle urne, dove sono conservate le ceneri di Adriano. E in quella nicchia c'è una lapide nella quale si legge questo epitafio che si dice abbia composto lui stesso sul letto di morte: animula vagula blandula hospes cum esque corporis, che nunca bibis in loca pallidula rigida nudula nec ut soles dabis iocos. Un istante ancora, guardiamo insieme le rive familiari, le cose che certamente non vedremo mai più. Cerchiamo di entrare nella morte ad occhi aperti. E questo era Giorgio Albertazzi nel monologo finale dello spettacolo teatrale Memorie di Adriano, ritratto di una voce, che lui interpretò per la prima volta nel 1989. La prima parte in latino è l'epitafio che ha scritto Adriano, la seconda è un'aggiunta di Margherita Jursenar, che ha scritto uno dei libri più belli della storia, il libro Memorie di Adriano, e da questo è stato tratto lo spettacolo teatrale. La poesia tradotta rotta. Suonerebbe pressappoco così: piccola anima smarrita e soave, compagna, ospite del corpo, ora t'appresti a scendere in luoghi bui, ardui e spogli dove non avrai più gli svaghi consueti. In realtà animula, vagula, blandula sono nomignoli dolci, e se la leggi in latino ha delle sfumature diverse. Ci sono appunto queste parole quasi bambinesche che non si traducono facilmente in un'altra lingua, per questo sarebbe importante continuare a studiarlo il latino. Ma immaginate, insomma, uno degli uomini più potenti della storia che prima di morire parla di sé come un'animuccia vagabonda e piccolina. È una cosa strana. Poi, guardando quel mausoleo imponente, è difficile pensare a quelle parole di Adriano. E questa non sarà l'unica contraddizione del personaggio di oggi. Gli storici romani già lo raccontavano come severo e sorridente, ma come lascivo e moderato, simulatore, dolce, crudele e violento, un uomo di contraddizioni. Forse anche per questo ci piace. Castel Sant'Angelo viene chiamato così dopo che i papi hanno trasformato il mausoleo in una fortezza. Ha perso il nome dell'imperatore, nessuno lo chiama Mole Adriana, e ci sono due costruzioni enormi dell'antico impero che portano ancora oggi il suo nome: il Vallo di Adriano nel Regno Unito e Villa Adriana a Tivoli, a pochi chilometri da Roma. Il Vallo Adriano, confine dell'impero a nord, costruito per fermare le incursioni dei barbari che venivano dalla Scozia. La villa di Tivoli, residenza dell'imperatore fuori dalle mura di Roma, è una tenuta non grandissima, 120 ettari, però lì Adriano ha fatto riprodurre gli ambienti di tutte le province dell'impero. È una costruzione incredibile, c'è molto di lui lì, la fascinazione per l'esotico, l'ostentazione della sua passione per la provincia, e lì la provincia era mezzo mondo, per i viaggi. Questa è una descrizione della villa nella Historia Augusta, che è una raccolta di biografie dei più importanti personaggi dell'età imperiale. Fece costruire con eccezionale sfarzo una villa a Tivoli, dove erano riprodotti con i loro nomi i luoghi più celebri delle province dell'impero, come il Liceo, l'Accademia, il Pritaneo, la città di Canopo, il Pecile e la Valle di Tempe. E per non tralasciare proprio nulla, vi aveva fatto raffigurare anche gli inferi. Adriano è un amante dell'arte classica, è un sovrano colto, lui preferisce la diplomazia ai conflitti armati, almeno questa è l'immagine di sé che vuole trasmettere. Passa la storia come un mecenate, come un amante dell'arte, della filosofia greca, fa costruire edifici e statue che diventano omaggi alla scultura, all'architettura classica. Per esempio il simbolo più grandioso di questo suo, diciamo, filo ellenismo è il Pantheon, e proprio al Pantheon è legato un episodio che rende bene questa immagine di sovrano illuminato, perché il Pantheon viene costruito da Agrippa un secolo prima di lui. Infatti la scritta sul frontone recita: lo costruì Marco Agrippa. Poi la costruzione venne distrutta da un incendio nell'80, proprio 80-80, quando Adriano lo fa ricostruire, mette mano al disegno, lo cambia completamente, e allora potrebbe anche scrivere il suo nome sul frontone. Ma alla fine dei lavori restaura la vecchia scritta, la fa riposizionare all'ingresso dell'edificio, segno di umiltà, di rispetto verso il lavoro di quelli che c'erano stati prima di lui. Questo è quello che si legge di Adriano nella Historia Augusta. Su tutto ciò che costruì, ossia un numero infinito di monumenti, da nessuna parte scrisse mai il suo nome, se non sul tempio di Traiano, suo padre adottivo. E quindi fino adesso abbiamo visto un imperatore colto, umile, però c'è un rovescio della medaglia. La storia racconta anche di uno un po' megalomane, di un tiranno che faceva fuori gli oppositori. C'è poi una storia che lo perseguiterà negli ultimi anni della sua vita, una storia che ha a che fare con la morte misteriosa del suo giovane amante affogato nel Nilo. L'episodio verrà presentato come un incidente, molti morti mormorano di un omicidio da parte di funzionari dello Stato per far fuori il favorito di Adriano, altri parlano di un rito di magia nera compiuto dall'imperatore stesso. Adriano non è figlio di un imperatore, passa la vita a prepararsi per diventare imperatore, perché lui fa parte di una cosiddetta dinastia, quella degli imperatori adottivi, cioè dove il trono non passa di padre in figlio, ma nel quale l'imperatore in carica sceglie il delfino, sceglie il suo successore tra i membri della aristocrazia e lo adotta. Nasce nel 76 d.C. in Spagna, rimane orfano di entrambi i genitori a soli 9 anni, lui viene da una famiglia nobile, la madre discende da una famiglia senatoriale della provincia spagnola, il padre è un senatore di origini romane, trapiantato a Italica. Italica è la prima colonia romana in Spagna e il senato è nel suo futuro, i genitori lo formano fin da piccolo proprio per questo, poi però i genitori muoiono, Adriano capisce che nel suo destino non ci sarà il senato, o meglio non solo il senato, perché il cugino del padre lo prende in tutela senza adottarlo ufficialmente. Il cugino del padre è un senatore molto potente, si chiama Traiano, di lì a poco diventerà imperatore e Traiano non ha figli, e allora la moglie Plotina cresce Adriano come se fosse suo figlio. Insomma, le cose cominciano a mettersi bene per Plotina. Adriano è il figlio che ha sempre desiderato e protettiva nei suoi confronti, diventa una figura invadente lei, perché è lei che deciderà chi sposerà Adriano, sarà lei a farlo crescere in politica, lei che lo farà nominare più avanti imperatore. A 18 anni infatti Adriano è già entrato a far parte di un collegio di giudici, ricopre cariche importanti all'interno del senato. 4 anni dopo Traiano viene indicato da Nerva come futuro imperatore di Roma e il suo tutore legale dirigerà l'impero romano. Adriano sa bene che non basta questo per succedere a un imperatore, bisogna essere nominati. Traiano non è ancora sicuro di voler cedere l'impero ad Adriano quando morirà, questo è Albertazzi per esempio in memorie di Adriano che parla proprio di questo argomento. Traiano detestava di stinto i subalterni indispensabili. Mi fu prezioso allora il più saggio dei miei numi tutelari, Plotina, l'imperatrice. Nessuno mi ha conosciuto quanto lei. Mi piace credere che anch'essa da parte sua non mi abbia taciuto quasi nulla. L'intimità dei corpi, che non esisteva fra di noi, era compensata da questo contatto di due spiriti, intimamente fusi l'uno con l'altro. Eravamo complici. Avevamo entrambi la passione di abbellire e poi denudare le nostre anime, mettere il nostro spirito a prove di ogni genere. La nostra intesa non aveva bisogno di confessioni, di spiegazioni, di reticenze. I fatti bastavano da soli e Plotina li osservava meglio di me. Credette di giovare la mia carriera combinandomi un matrimonio con la nipote di Traiano, Sabina. Il fatto che questo sia un matrimonio felice o no non è importante, in realtà non interessa neanche a noi. I due si sopportano a fatica, lui la trova detestabile, la tradisce con donne e con uomini, insomma una storia che potrebbe essere di oggi. Eppure questo matrimonio così odiato sarà la fortuna di Adriano, perché la suocera è una donna molto influente negli ambienti imperiali, lo introduce ai personaggi più importanti dell'impero. Insomma, il matrimonio con una parente di Traiano avvicina ulteriormente Adriano alle stanze del potere, per certi versi tranquillizza anche l'imperatore. Insomma, Plotina sta facendo bene i suoi calcoli, lei desidera che Adriano diventi imperatore, forse addirittura più di Adriano stesso. E nel frattempo Adriano sta ricoprendo ruoli strategici all'interno dell'impero, accompagna Traiano nelle campagne militari per 5 anni, è con lui in Dacia, diventa governatore di Pannonia e però l'imperatore ancora non si decide a nominare un successore. Nel 117 Traiano ha 60 anni, che per quei tempi lì insomma erano un'età già a rischio, è riduce da una serie di lunghe campagne in Oriente, in Mesopotamia, contrae una malattia infettiva e l'8 agosto muore, si apre la caccia al successore, nessuno sa chi sarà il prossimo imperatore. Plotina si gioca il jolly perché sostiene di avere raccolto la volontà di Traiano riguardo alla successione proprio in punto di morte, lontano da tutti. Insomma, per Plotina Traiano ha adottato ufficialmente Adriano e quindi sarà lui il nuovo imperatore di Roma. Adriano ha 41 anni quando diventa imperatore di Roma e molti hanno dei dubbi sul fatto che Traiano abbia veramente scelto lui. Sono convinti che sia stata tutta una messa in scena di Plotina. In realtà, sì, le circostanze sono un po' ambigue. Traiano ha sempre stimato Adriano, gli ha affidato ruoli di prestigio, ma questo forse non è stato abbastanza per meritarsi la successione al trono. Poi, improvvisamente, sul letto di morte viene adottato, lontano da testimoni. Insomma, i romani sono sospettosi, a pensar male si azzecca sempre, e c'è qualcosa di poco chiaro in questa faccenda. E i problemi, peraltro, Adriano non ce li ha solo con l'opinione pubblica, ma anche coi suoi consoli, ai quali non piacciono le sue scelte politiche. Per esempio, lui pone fine alle guerre in Oriente e di conseguenza perde Assiria, Mesopotamia e Armenia. Questa cosa non piace ai vecchi vertici militari che erano legati a Traiano, e così alcuni generali complottano contro di lui, progettano un attentato. E qua bisogna tirar fuori gli attributi, e gli attributi in quegli anni erano prendere i colpevoli e farli ammazzare, li condanna alla pena di morte. Al balcone del Palatino già misuravo la mia differenza. Sognavo una sovranità olimpica. Fu verso quell'epoca che cominciai a sentirmi Dio. Ero Dio, semplicemente perché ero uomo. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando un imperatore dell'antica Roma, uno dei cosiddetti buoni imperatori, Adriano, che passerà la storia per la saggezza con la quale gestisce le province, diversamente dai suoi predecessori, perché lui non si limita a amministrarle, si fa vedere ai confini dell'impero. La conseguenza di questo atteggiamento è la pace, un'epoca di pace in tutti i paesi del Mediterraneo, ma anche la diffusione di un modello di vita, il modello di vita romano, anche nella periferia dell'impero. Insomma, sta conquistando i romani Adriano, e smettono di guardarlo con diffidenza perché c'erano stati dei dubbi sulla sua successione a Traiano. Il nuovo imperatore si mostra uno capace e equilibrato. I primi provvedimenti, per esempio, riguardano gli schiavi: toglie ai padroni il diritto di vita e di morte, vieta la vendita degli uomini e degli schiavi per fini indegni come prostituzione e combattimenti, e fa costruire opere incredibili in tutto l'impero. È il primo che mostra interesse per le province, viaggia, va sui posti, si presenta fisicamente e in luoghi nei quali avevano solo sentito parlare dell'imperatore. Proprio in uno dei suoi viaggi farà un incontro che gli cambierà la vita. Una sera in riva a una sorgente dedicata al dio Pan si dette lettura di un lavoro piuttosto astruso. Un giovinetto in disparte ascoltava quelle strofe ardue con un'attenzione pensosa e distratta al tempo stesso. Seduto sul bordo della vasca, sfiorava quella bella superficie levigata con la mano. Quando tutti gli altri si furono allontanati, lo trattenni. Riuscì a farlo parlare della sua casa al limitare delle grandi foreste, dei bei cavalli del suo paese, delle strane sue divinità. Quella voce, lievemente velata, si esprimeva in greco con accento asiatico. Improvvisamente, sentendosi ascoltato, forse anche osservato, il ragazzo si confuse, arrossì, ricadde in uno di quei silenzi ostinati ai quali mi abituai. Antino, ragazzo turco che non ha neanche 20 anni, e Adriano probabilmente vede in questo ragazzo le statue greche che a lui piacciono tanto. Per lui, insomma, questo ragazzo è l'incarnazione della perfezione. Beh, oggi, insomma, l'idea di un uomo adulto che si innamora e si mette con un ragazzino di 15 anni ci mette un po' i brividi, però all'epoca intanto i diritti dell'infanzia non erano gli stessi di oggi. La cosa non era ritenuta inaccettabile. L'omosessualità era accettata nell'antica Roma, però a determinate condizioni. Cioè, un romano libero poteva avere relazioni con un altro uomo solo se di rango inferiore al suo. Insomma, che un cittadino romano poteva tradire, sì, la moglie, ma solo con schiave o donne di ceti più bassi, insomma, per non metterla in imbarazzo la signora. Ecco, vabbè, la frequentazione di un uomo con degli adolescenti liberi veniva chiamata con disprezzo il vizio greco. Adriano però è l'imperatore, quindi nessuno può dire all'imperatore cosa sia giusto o sbagliato fare, se il suo comportamento è immorale. Insomma, questo Antino diventa l'assistente personale di Adriano, lo porta con sé nei suoi viaggi, lo porta nella villa di Tivoli, anche se lì c'è la moglie, ma insomma, questo non ha importanza. La loro relazione diventa un fatto risaputo a corte, quei fatti che si sanno ma non si devono dire. Naturalmente però ci sono funzionari, generali e governatori che non sono molto contenti, anzi cominciano ad avere paura, perché Adriano sembra veramente innamorato, farebbe qualsiasi cosa per questo ragazzo di provincia, e sappiamo che se l'imperatore adotta qualcuno, poi questo diventa a sua volta imperatore. Insomma, questo Antino sta salendo ai vertici dell'impero, c'è chi dice che potrebbe addirittura essere adottato e quindi essere il nuovo imperatore. Quando sono nella villa di Tivoli, per esempio, ci sono tutti gli alti funzionari che sono lì a aspettare di farsi ricevere da Adriano. Antino ha libero accesso alle stanze private dell'imperatore, quindi immaginate, insomma, il rodimento, il fastidio e la paura. Questo Antino sta diventando una minaccia per tutti. E Antino diventa una presenza costante nella vita di Adriano per quasi 5 anni, a corte, durante i viaggi, e con lui anche una sera di ottobre, siamo nel 130, durante una traversata del Nilo. 30 ottobre, Antino scompare misteriosamente tra le acque del Nilo. Adriano è con lui quando recupereranno il suo corpo senza vita, e lui rimarrà sconvolto dal dolore. Da quel momento Adriano non è più lo stesso. Questo è quello che gli storici romani scrivono di quella notte nella Historia Augusta. Durante una navigazione sul Nilo, Adriano perse Antino e lo pianse con lacrime e singhiozzi degni di una donna. Alcuni insinuarono ciò che la bellezza del giovane e la sensualità di Adriano lasciano immaginare. E cominciano a circolare voci su quella morte. Adriano parla di un incidente, e però ci sono possibilità che si tratti di un omicidio, magari commesso da quegli stessi uomini dell'imperatore che temevano che Antino diventasse il successore al trono di Adriano. Poi c'è una terza ipotesi che comincia a farsi strada: la morte del giovane amante dell'imperatore sarebbe un suicidio rituale, una specie di sacrificio fatto per allungare la vita a Adriano. In quegli anni, peraltro, insomma, dopo la venuta di Cleopatra a Roma, si era diffuso nell'impero il culto egizio di Iside, che era un misto, non so, tra culto esoterico, una religione pagana, un rito magico. Insomma, secondo questo culto, chi muore nel Nilo è paragonabile a un dio. Se muore un giovane, questo giovane ha il potere di allungare la vita, di ridare salute a una persona più avanti con gli anni. Quindi si ipotizza più l'estremo sacrificio di Antino, che per amore di Adriano muore per allungare la vita. Ma ci credo poco a questa, ma comunque questo è quello che scrive Erodoto nel 90. Chiunque egiziano o straniero catturato da un coccodrillo o affogato nel fiume deve essere imbalsamato con tutte le attenzioni e seppellito in bare sacre. Nessuno, tranne i sacerdoti del Nilo, ha il diritto di toccarlo, perché il suo corpo è ritenuto più che sacro. Quella sera di ottobre Adriano ha 50 anni, è malato, è un tipo molto superstizioso che subisce il fascino esotico dell'Egitto, è uno avvezzo a riti magici, ma è possibile che abbia addirittura sacrificato il suo amato? Avrebbe mai potuto spingere Antino a morire per un rito magico? Oppure potrebbe essere stato Antino a proporsi volontariamente come vittima sacrificale per allungare la vita dell'imperatore? Insomma, come ho detto prima, questa mi sembra un po' grossa, ma questo, insomma, la verità noi non la sapremo mai. Quello che sappiamo per certo è che dopo la sua morte cominciano a comparire rappresentazioni di Antino in ogni angolo dell'impero. C'è qualcosa su Antino. Adriano, in suo onore, istituisce addirittura il culto del dio Antino e poi fonda la città di Antinopolis sulle rive del Nilo. Gesti esagerati che vengono letti come un ringraziamento verso il ragazzo o semplicemente come segno della follia di Adriano. Queste sono fonti dell'epoca. I greci, per volere dell'imperatore, divinizzarono il ragazzo, affermando che da lui venivano responsi oracolari. Si mormorava che fosse Adriano stesso a prepararli. Il falco e il gabbiano. Adriano è da un lato il sovrano buono, l'amministratore amante dell'arte, dall'altro però anche un tiranno superstizioso sul quale peraltro grava l'accusa di avere sacrificato nel Nilo il suo giovane amante. Adriano è lo stesso che ordina di giustiziare l'architetto Apollodoro perché aveva criticato il progetto del Tempio di Venere disegnato dall'imperatore. La morte di Antino è un dolore troppo forte. Adriano ha cercato di esorcizzarla, rendendo Antino un dio, chiamando una città col suo nome, titolandogli un ambiente nella villa di Tivoli, dove spesso hanno camminato assieme. L'ambiente l'Antinoeion, dove fa costruire un grande monumento funebre. E poi ci sono statue che ritraggono Antino sparse ovunque nell'impero e in tutte queste rappresentazioni, insomma, lo fa venire fuori bene perché segue il canone della perfezione greca. Una volta ha sembianze umane, altre volte somiglia a un dio, è Baco, è Hermes, spesso è Osiride, il dio egizio che torna dall'aldilà. Insomma, ormai per Antino questa diventa, da parte di Adriano, una passione e un'ossessione. Si allontana definitivamente dalla moglie, litiga anche con la sorella Paolina, con la quale era sempre stato unito, ma anche per lei, insomma, questo attaccamento a Antino è troppo, è quasi ridicolo. A un certo punto muore la sorella Paolina. Per Adriano è l'ennesimo colpo, però anche va detto che a lei non dedica neanche un decimo di quello che fa costruire in memoria di Antino. L'amore tra Antino e l'imperatore entrerà nella storia esattamente come le sue riforme e come le sue opere d'arte. 2000 anni dopo, Fernando Pessoa immagina così quel tormento di Adriano nel poema che intitola Antino. Oh Adriano, che sarà della tua fredda vita? Che vale essere padrone d'uomini e nazioni? La sua assenza sul tuo visibile imperio cala come una notte che non avrà un mattino con speranze di nuovi piaceri. Ora le tue notti sono vedove di amore e baci. Ora i tuoi giorni sono deufradati dell'attesa della notte. Ora le tue labbra non servono più alle tue estasi e possono solo pronunciare il nome che la morte sta sposando a solitudine e dolore e paura. Adriano ormai è solo, ha allontanato le persone della sua famiglia che si sono opposte alla storia con Antino, è preso anche in giro da molti. Ci sono addirittura alcuni che si divertono a raccontargli la storia che Antino sia diventato una stella da quando è morto, insomma lo mettono in mezzo e a lui piace questa storia, quando l'ascolta si incanta a guardare il cielo per ore. Ma oltre a questi momenti di nostalgia e tenerezza c'è anche un altro Adriano, quello che ha cambiato atteggiamenti, viene raccontato così nella storia Augusta. Controllò la crudeltà fino a quando nella sua villa di Tivoli quasi morì per un'emorragia. Allora abbandonò la moderazione, condannò a morte molti, apertamente o a tradimento. Quando morì sua moglie Sabina, si sparse la voce che l'imperatore l'avesse avvelenata. Tra il 132 e il 135 reprime la seconda rivolta giudaica, facendo 500.000 morti solo durante le battaglie, senza contare quelli che poi sono morti per carestia, per incendi, per malattie. Insomma, è fuori di testa, è affaticato dall'età, ha una malattia ai polmoni che lo sta consumando. E un giorno nella sua villa di Tivoli, vicino al laghetto Cepile, fa chiamare il suo medico di fiducia, che si chiama Giolla, e lui ha l'aria sofferente non solo per la malattia, anche per il dolore delle perdite che ha dovuto affrontare, in realtà per Antino e poi anche forse per gli altri. Giolla chiede a Adriano quali cure ti servono e lui gli risponde: ho per te una richiesta particolare. Gli chiede una soluzione per alleviare tutti i suoi dolori definitivamente, per la prima volta. Insomma, si parla di eutanasia, ma eutanasia non solo del fisico, dell'anima. Lui vuole una pozione come quella che aveva bevuto Socrate per togliersi la vita e per morire in pace, per uccidere se stesso insieme ai suoi demoni. E Giolla è spiazzato da quella richiesta, lo vuole dissuadere in qualsiasi modo. Adriano è deciso, vuole morire, non è più in grado di affrontare le sofferenze, ripeto, del corpo, ma soprattutto dell'anima. Il giorno dopo, alle prime luci dell'alba, lui è intenzionato a bere la pozione che ha ordinato di preparare a Giolla. E quella mattina Adriano aspetta il medico vicino al laghetto. Dopo un'ora di attesa arriva un servo con l'espressione sconvolta: Giolla è morto, avvelenato. Eh sì, lui ha bevuto il veleno che aveva preparato per l'imperatore, si è ammazzato pur di non essere costretto a essere l'artefice della morte di Adriano. E la fine di Adriano arriverà solo qualche anno dopo, nel 138, a Baia, vicino a Napoli. Un edema polmonare lo porterà via. Le sue ultime parole le conosciamo. La storia di Adriano è una storia veramente contraddittoria. La poesia minimale, invece il mausoleo impressionante, la politica equilibrata e poi la follia d'amore per un ragazzino. Forse è proprio in questo enigma che si racchiude il potere di un personaggio che la storia ci ha consegnato come uno dei più grandi imperatori di Roma. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese e Alessandra Nardini. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. Data Center, Trust Services e tecnologie cloud enterprise. Le migliori soluzioni per realizzare grandi progetti. Aruba Enterprise, la certezza di una soluzione IT. In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud.